intorno alle 6-4 all'incirca, però la radio per me va sempre bene, non ho problemi nell'ascolto. All'anima, sì, diciamo puoi ascoltare le stazioni più forti, ecco. Comunque, no, caspita, e cos'era? Sarà stato modello ammiraglio? Non dico di prendere, poi dipende se ti serve la coppia oppure solo uno, ma quanto può costare un G7? Una cinquantina di euro, 60 spedito, dai, un G7 che non è malaccio. Proprio per non avere roba, se no me, da AliExpress ci sono i Retevis 388, alias Brondi FX 10, identico, cambia appena il colore, sono persino norma CE, non è China Export, e costano l'uno tipo 10 euro, 11, se proprio spedizione compresa, non so se mi spiego. Se avremo occasione, Nicola, te li faccio vedere. So che hanno una ricezione talmente stretta che se non sei proprio PMR puro, FM stretta, strappa di brutto. Anche per ascoltare, tanto ormai è lì tutto libero uso, comunque. Vai Gianfra, io lo tolgo questo apparecchio, mi ha scocciato questo calore, dai, pausa per me, riprendete voi. Sì, ok. Guarda qua, ne sto guardando, questi della Baofeng, il VFT3, te ne danno 2 per 14 euro, 2 per 14 euro su eBay. Sono PMR, vediamo un po', ma PMR stanno, erano come quelli che avevo io una volta, dai, che dalla Brondi, quello lo sappiamo infatti, se non si vedono non si riesce, diciamo, a ricevere un tubo, ecco. Perché così, capito? Ma sono fatti apposta per l'uso che, per cui sono autorizzati, un chilometro, due chilometri fanno più che bene. Certo, se ti metti in linea ottica si fanno tranquillamente anche 5-10 chilometri, anche oltre. Quindi è così. Poi tu lo sai perché più o meno eravate lì, quindi avrei fatto anche una bella esperienza riguardo a quegli affari. Sì, noi infatti ce li abbiamo in UHF e quindi ci sono, ecco, non per i PMR, però per gli apparati, diciamo, amatoriali ci sono, anche tanti questi ripetitori. Ti volevo chiedere, voi dove eravate? Su proprio a Osilo per Sassari oppure sotto dove c'è il rifornitore, per intenderci? Il ripetitore? Ah, sulla cima proprio, ho capito. Quindi dove ci sono tutti gli altri anche, dai. Ok. Niente, tutto così. E comunque quando è in quelle posizioni, la distanza coperta è notevole. Ad esempio ho fatto delle prove proprio lì, dove dicevamo prima, insomma, su, ad esempio, su altre frequenze vai ad attivare anche un ponte che ce li ha a Cagliari e sul Monte Serpidì, quindi la distanza c'è. E guarda, ci ho già provato io, perché il problema qua è il QRM essenzialmente, a meno che non vai di notte, ma diventa una cosa un po' strana. Di notte, quando il QRM scende parecchio e magari in FM potresti andare molto lontano. Io ti posso dire, quando ero giovane sono andato su all'Imbara e dall'Imbara non avevo problemi a sentire Sassari, ecco. Sì, accendere, dovrei accendere l'altra e su questa l'FM non c'è, però mi basta accendere l'altro apparecchio e c'ho tutto. Allora, non si può parlare di pulizia nel senso di QRM, se il QRM c'è qua c'è anche influenza anche l'FM, solo che l'FM è molto molto più resistente ai disturbi rispetto all'AM. L'AM molti la chiamano antica modulazione perché si usa solo per gli aerei praticamente oramai, per una questione più che altro di perché c'è già, perché cambiarla costerebbe troppo. Però sicuramente dal punto di vista di chiarezza l'FM non c'ha pari rispetto all'AM, non è neanche da considerare. In tanti altri paesi invece è solo FM, perché forse sono un pochettino più furbi di noi. Comunque in Italia si può usare sia una sia l'altra, non la usano perché poi hanno difficoltà a regolare la radio, capito? Perché tutti sono mezzosordi e quindi vogliono la radio super amplificata. Dovrebbe essere 12 watt, anche perché comunque l'inviluppo che crea è quello, capito? Perché lì entra il gioco anche il finale, che c'è una potenza soppressa e quindi il guadagno lo dà la modulazione. L'incremento della potenza è dovuto al fatto della modulazione, capito? Perché praticamente c'ha più resa la modulazione, non avendo l'imbarazzo della tipica portante in AM. Sì, si può usare. L'importante allora interessa il numero di canali, capito? Che siano 40 canali. Esatto, oramai sì. Ci è quello originale ovviamente, no? Bisogna stare attenti che non sia quel CE tutto attaccato che Cina Export. Deve essere staccato la C e la E, ben distinguibili. E poi comunque tutti quelli che vendono adesso stanno mettendo dentro il foglietto con l'approvazione europea e quindi non si sbaglia. E beh, anche la Midland, non pensare che gli apparati le faccia, cioè molti se li fa fare, ecco, capito. Marco, hai cambiato? Sì, sono qui e sto ascoltando. Riprendete pure, dai. No, è tutta dormenti, dai, parla. Sì, sei Yannicco. In banda laterale puoi usare 12 watt di picco, se non è cambiato qualcosa. Erano 4 watt MFM e 12 di picco in banda laterale, ma poca cosa è. Oddio, raddoppiare non so, Gianfra. Triplicare la potenza, 4x3, 12... Cioè in termini di distanza quanto può essere in più? Non si può calcolare perché ci sono troppe variabili, quindi lo sai in 27 basta un pochino di QRM in più e già non ci si sente, quindi è una cosa molto evanescente, ecco, come non si può dire, diciamo un pochino in più. Dipende, guarda, se sei centrato, perché di lì si opera facendo le centrature, no? Perché sennò gli apparati sarebbero molto costosi, un tipo di apparati civili o professionali, cioè tutti per essere estremamente precisi in frequenza, perché di lì basta un minimo scarto e si sente tutto distorto. Hanno un quarzo che si chiama quarzo termostatato, che serve proprio a mantenere, a impedire anzi la deriva cosiddetta termica che hanno i componenti, quindi rimane sempre fisso esattamente, che ne so, su 27.075.00, perché se fosse già, che ne so, a 74 o 75.09, inizierebbero già i problemi. Mi sembra un pochino più forte, se non ho visto male, mi sembra un pochino più forte. Lo so, e tu figurati se avevi un UHF cosa succedeva, di lì era mezzo metro di spostamento già, soprattutto se c'avevi un gommino in gomma. Avanti Marco. Sì, sì, infatti la 27 è abbastanza... vabbè, primaria diciamo come banda. E lì in PMR, guarda, io quando avevo i Brondi, Brondi FX10, che erano uno tra i primi usciti della Brondi, il modello, no? Erano dichiarati 5 km portata ottica e noi li abbiamo provati a Platamona con mamma. E lei era al quinto pettine, io ho fatto proprio sul bagnasciuga, mi sono allontanato finché il segnale è sparito, ed è sparito arrivando alla Marina di Sorso. Poi controllando su cartina con Google Map e anche prima col quel contatore lì, facendo la litorana, a due chilometri perdeva. Solamente avevano antennini proprio base, però in portata ottica li fa, anzi i nuovi PMR hanno antenne più performanti, più forse meno caricate, più sviluppate in lunghezza, magari qualcosa di più la fai, sempre tutto da omologato, e poi se li aumenti la potenza non ne parliamo, però lì poi diventa non omologhi. Prego. Dirino, non ti posso sapere, non ti posso aiutare perché non conosco su che principio si basa il conteggio, ecco. Se utilizzando un GPS, ma dovrebbe essere eccezionalmente preciso, avendo uno scarto da 1 a 5 metri. Non lo so, Marco, tu che giochi sempre con questi piccoli gadget, ne sai qualcosa? No, nulla. A volte sono miracoli, a volte no. Marco, sto guardando, ma sembra che ci sia una svendita, perché di svendita si tratta, di questi Baufengler a 20 euro. Anzi, siccome si vergognavano, hanno messo 19,99 Baufeng in UHF. Se ne compri due te li vendono anche per meno, se ne compri tre ancora meno, proprio come si dice a quintali, no? Chissà se poi sono conformi questi affari, ma a questi prezzi, vediamo un po', a questi prezzi, sì, sono conformi, 0,678, sono anche conformi, te le immagini, Marco? Ma Baofeng è omologati PMR veri e propri, non amatoriali? No, qua dice 400-470, quindi sono solo amatoriali, o al limite per qualche privato che non ne frega niente della qualità. Però c'è una marcatura, CE, bello staccato, 0678, che è quella la classificazione per gli apparati ricetrasmittenti. Bella domanda! Marco, tu cosa rispondi? Che è meno portata, una seccatura in più, devi usare potenze spropositate per coprire sassari dintorni. Tutto un rischio, vabbè. Però è divertente come alternativa ogni tanto, ma senza strafare, diciamo, dai. Sì, cioè se devi fare piccole cose a brevi distanze, è molto più comodo, più piccolo, cioè i baracchini sono, vabbè, adesso sono anche piccoli i baracchini, ma una volta erano dei barragioni. Per esempio alla cavalcata fanno il servizio, i ragazzi che fanno il servizio, che coordinano l'avanzata del coso, usano i PMR. Una volta c'era, chi era il FIR, il SER, Gianfranco, l'associazione di CB, che usavano i portatili dell'epoca, quelli spalleggiabili. Sì, quelli ho capito, che facevano così l'ordine di Malta, eccetera. Adesso anche loro hanno tutte radio professionali, ho visto. Guarda Giulio, Nicola, sono nati per un motivo semplice questi UHF, innanzitutto perché c'erano già in tutta la comunità europea, ma poi perché praticamente l'uso, serviva soprattutto a chi doveva piazzare un'antenna. Tanto è vero che su quelle frequenze, se non ascolta, ci sono anche sia la vigilanza, che ne so, dell'ospedale civile, di Città Mercato, dell'ex Città Mercato, perché oramai la stanno chiudendo, anzi l'hanno già chiusa. Poi c'è anche l'ospedale, i reparti che ogni tanto parlano, e tutte queste cose, quindi è un uso anche lavorativo, ecco, anche per le gru, per i cantieri, capito? Ci mettono il tono di chiamata e così almeno sono sicuri che non sentano altre voci. Certo, se poi trovano il canale dove c'è la stazione che trasmette con 20 watt, con 5 watt, con antenne FM, boh, hanno chiuso. Come no, non c'è problema, Nico. Assolutamente, come si dice, rompete le righe, riprendi, Marco. Certo, Nico, ci mancherebbe, dai. Ci sentiamo le prossime, quando capita. Dai, buona serata, buon tutto. Mamma mia, che mi sta venendo a me il caldo adesso, ma di brutto, Ciao Nicola, ben ascoltato, alle prossime, fate sentire. Sì Marco, anche qua c'è un po' di caldo. No, ma perché ho spento la ventola da soffitto e poi mi sto accaldando di mio, ogni tanto mi vengono le... c'ho la menopausa io, capito? La menopausa ti viene, insomma, quando ti manca qualcosa, già lo sai. Può essere, ci avevo pensato anch'io. Non l'hai vista. Se l'avrei saputo mi sarei messo fuori dal mercato con una ventina di portatili e ho iniziato a dire ci abbiamo portatili freschi freschi a 19, quanto peserà? A 19 letto appeso come da Piras, mi dia un etto di ceci secche o come si chiama quella roba che ha lui essiccato, dai. Poi ci sono anche questi che sono microscopici, GD73, lo conosci? GD73? Ma che roba è? Radio DT. No, non ce l'ho presente Gianfra, ma sempre quelle buone, diciamo, uso professionale. Poi, questo... quindi è DPMR 446, che poi non si capisce più niente su questi cinesi, è una cosa micidiale. Cioè da una parte dice DPMR, dall'altra parte dice DMR, se si mettono d'accordo forse riusciamo a capire cosa stanno vendendo. E questi si sono appollaiati a Vienna in Austria, che la robot, l'avrei conosciuta, è famosa, la robot Radar, praticamente sta mettendo magazzini un po' in tutta Europa in modo da avere subito la spedizione pronta, capito? Sono micidiali, sono carini perché sono piccoli, molto molto molto piccoli, stanno dentro il palmo della mano, però poi bisogna vedere cosa fanno realmente. Ascolta, la modulazione per caso è aumentata? Hai notato qualche differenza da appena ho messo questo apparecchio? Non in maniera particolare, perlomeno. Tieni presente che essendo un po' rimbambito, non la ricordo già più quella di prima, però va bene. Un attimo solo. Questa è quella di prima, Gianfra. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. A me sembrano uguali, guarda. E infatti non se ne capisce molto. Perché avvicinando il mic, devo attaccarlo per farlo fischiare. Prima stavo fischiando già. E sono 1000 cose micrometriche, per carità. È quello quando c'è il trimmer con valori sbagliati, capito? Magari c'ha un'alta impedenza, quindi va a muoverlo e in un colpo solo ti fai magari 10 kΩ senza neanche accorgerti, mentre invece se fosse da 10 magari i valori sarebbero più lineari. Sì. Vediamo un po'. Sì, sta fischiando molto di più. Adesso prima lo devo attaccare all'altro apparecchio, adesso guarda. Già a 30 cm fischia, quindi dovrebbe aver migliorato qualcosa, comunque di più non va. Cioè senti una. Ma pochi 2 gradi, 2-3 gradi si gira, poi senti una resistenza e meglio non andare oltre, dai. Tanto se la modulazione, tolgo questo che se no mi fa rientro, se la modulazione va bene, se tu mi dici che non è bassa, io faccio la colata lavica e... Torna, fai la colata lavica così poi se non va bene, se cambia qualcosa o per qualche motivo di dilatazione o di temperatura si è inguaiata, vediamo più tutto. Allora, prova, ma me ne accorgo anche dallo smitter. Hola, adesso sto parlando di lato al mic vicino e i LED variano. A 4 dita i LED variano. A 20 cm LED variano, come se ci fosse, prova, è che mi fischia, vabbè, è passabile, diciamo che è passabile, dai. Per me addirittura è buona, per me va bene, è ascoltabilissima, oi, forse è il caso di iniziare anche a preoccuparmi. Quando hai detto che c'è molto caldo, ho detto cavolo, anch'io c'ho molto caldo, eppure ho acceso il ventilatore, mi sono girato e mi sono dimenticato di mettere la presa. Ehi, vabbè, capita, dai. Vediamo se c'è Claudio all'ascolto un istante. Claudio? Marco. Chi è avanti? Buonasera. Ah, Luigi Vulcano, ciao Luigi, dopo tanto. Una curiosità, ma tu l'altro giorno stavi provando un apparato sull'8 e poi sul 48, provando un apparecchio a lecco, interrogativo. Non lo so, come ne ricordi, quando? Tipo ieri o 2 giorni fa, può essere, sembrava la voce tua. Eri sull'8 e poi sul 48 sei salito come di una banda. Eia. Lui, per il tuo orecchio, questa modulazione, dimmi se è abbastanza limpida, ma soprattutto se non è bassa o se è bassa al tuo orecchio. No, non è bassa, quasi tutti. Sei quasi 9,30 qua, è sopra il più. È strano però, tu sei 9 qua, cioè lo smitter segna 9, cioè che corrisponde bene o male al segnale tuo da quella zona tua, però la modulazione è alquanto bassa. Gianfra, dagli un controllo di radio tu, che io qua faccio la colata lavica, dai. Poi non piangere, avanti un po', vediamo com'è il segnale. Positivo, ma è bassa del radio, così mi hai detto, mi stavo dicendo Marco, non so, l'ho appena riparata e la stavo provando, prima non l'ho provata con nessuno perché non c'era nessuno, però mi sembrava che stava funzionando, vedi un po' se il radio mi interessa, il segnale non tanto, tanto è un baracchino, non è che sta facendo tanti watt, sono i classici watt su, i 4 watt su, i 5 watt massimo, se è buona come radio voglio capire. Sì, per me è buona il radio, tieni presente che io sono anche fuori Sassari e quindi io ti sento bene. Magari il mio apparecchio può c'ha anche un controllo del guadagno molto più efficace degli altri, però io ti sento bene, problemi ad ascoltarti non ne ho. È positivo, no, forse aveva ragione Marco, ero io che stavo provando un'altra radio, io stavo riparando e solo mi è sparato per trasportarmi nei canali dove non c'è nessuno quando faccio le prove, per non dare fastidio, capito? Allora ecco perché cerco di andare in questi canali un po' lontano, dove non posso dare fastidio, là. Come facciamo tutti più o meno. per fare le prove, però diciamo, ripeto, per me è abbastanza comprensibile. Positivo, dai, no, è un baracchino, dai, l'ho riparato, non ho finito, c'è un integrato della bruciato, il tuo passa a cambiarglielo e mi sembra che è stato andato a prendere. Infatti sono giù, io ho venuto da Arboro, non ho toccato nulla di dentro, il bicchiere è tutto aperto e infatti questo sì, tutto aperto, tutto a posto. Va bene, no, mi interessava sapere che se funzionava tutto qua, microfono normale, tuo palmare. Posso un attimino, scusami Luigi, è colpa mia, ti spiego. Sto usando un apparecchio con l'altoparlante frontale. Siccome ho tolto il coperchio per fare delle regolazioni fini, praticamente non mi faceva più da cassa di risonanza all'interno dell'apparato e sentivo la modulazione bassa e fine. No, diciamo è una modulazione tipo un omologato, no? Però normale, una modulazione normale. Gianfranco diciamo che è più forte perché è un apparecchio professionale, ecco. Comunque sì, si sente, niente, nessun problema. Riprendi lui. No, ma volevo capire se stava funzionando, non funzionava, l'ho messo a posto, della verità me l'hanno regalato. È un DSK, un preside DSK, capito? Me l'hanno regalato perché non funzionava, però l'ho messo a posto. Stavo provando, adesso ho sentito che tu e adesso provo a vedere come esce di radio, se è a posto. Microfono suo è originale, è tutto originale, capito? Non ho toccato nulla dentro, solo questo coso, ho cambiato che era scoppiato, era bruciato e basta, però non ho toccato né radio né nulla. L'originale è così, capito? Però c'è chi 620 canali questo, perché c'è A, B e C, capito? E FM, poi c'è quello, il 9, il 19, poi non c'è altro, però non so se è omologato, questo non te lo so dire. Eia, sì, modulazione tipo apparecchio omologato, però è capibilissima, chiara, niente da dire. Adesso che ho messo il coperchio si è la ricezione mi è tornata normale. Gianfra, stavo notando peraltro questo apparecchio che ti ho detto ieri il nome, già lo sai qual è, no? Allora c'ha la modulazione M, trimmer della M e anche un trimmer della limitazione della modulazione M, comunque c'è un limitatore, anche quello regolabile che però quello, certo che quello si va fuori scala proprio, non va bene. Riprendi Gianfra. La LC quello. Come? Quello è la LC dovrebbe essere. Sì, più o meno. Allora ti spiego, la vera modulazione la M si regola col trimmer, cioè serigrafato AM mod. E l'altro è AM mod limiter, c'è comunque una limitazione, no? Per evitare di far sbarrellare l'apparecchio, ecco diciamo. Io l'ho mossa di 2 gradi e basta. No, scherzo, sempre con le colate di cemento, niente, ho messo il coperchio, adesso metto le viti, fine, non tocco nulla, tanto importante che sia limpida, poi posso arrivare anche a Santiago 2. Vai Luigi. E a Marco, ho cambiato, questo forse è quello che stavo provando, avevo riparato anche questo, Questo è gemello di quello là, però ci ho fatto qualcosa dentro. Questo è il gemello spiccicato di quello là, stesso baracchino, però c'è qualche modifica in più che gli ho fatto dentro. Questo non so se cambia di più di radio, non lo so. Questo sei tu, Luigi, questo sei tu. Adesso sei più riconoscibile, dai. Ehi, è un abisso, c'è, questa è una bomba, è fortissima, diciamo che per dentro Sassari ce n'è anche d'avanzo. Gianfranco, vai tu. A me mi è sembrata, anzi se la diciamo tutti preferivo l'altra, ecco, perché è più tranquilla, può fare questo, la radio così, è la classica che devi abbassare il volume, rialzarlo, abbassare, rialzare, quindi ti stanchi. Io preferisco belle, chiare, però lineari, ecco. Ho capito, ma questa cosa c'ha perché non è chiara, non è buona come radio, no? Quello volevo capire. E solo gli ho fatto qualche lavoretto per essere per arrivare più diciamo là, spingi un po' di più in distanza, se uno è più lontano riesci ad ascoltare meglio, invece di mettere lineare queste cose non emetti e fai qualche lavorettino all'interno e dai appena appena più di radio e niente, capito? Sì, forse da lontano in teoria, però diciamo sugli apparati che non sono larghi come quelli diciamo dalla CB ti accorgi che è un po', come dire, non dico satura, però che si avvicina molto. Aspetta una cosa, questa possiamo fare anche chiudere un po' il Mickey Gay, guarda, adesso gli ho chiuso un po' il Mickey Gay, chiudendo un po' di radio. Oh, naturalmente Gianfarà, premetti che tu hai un apparecchio un po', cioè di tipo professionale, abbastanza pignolo, stretto diciamo come ricezione. Qua in questo baracchino suona bene, tipica modulazione tipo per il 45, capito lui? E quindi qua capisco cosa intende Luigi, qua è buono, certo, sì, forte, fortissima. Vai Gianfra, che caldo che c'ho, mamma mia, io mi devo denudare, scusatemi. Meno male che non ci abbiamo il video allora. No, dunque ti volevo dire, guarda, in questa modalità io ascolto benissimo le broadcasting, diciamo radio, se uno dice che inizia già a avere qualche pochino di saturazione, vuol dire che sta superando credo 9 kHz di ampiezza. Comunque i baracchini si sentono sicuramente benissimo, ecco. È sempre è un baracchino, non è una radio professionale, è sempre un baracchino. A volte quei baracchinisti che abbiamo non escono di radio, sono bassi, sono cose, a volte gli do appena appena il radio in più e vanno meglio. L'altro che stavo provando prima è gemello di questo, e dico la verità, però non l'ho toccato, quello ho cambiato solo quello integrale e l'altro ho lasciato normale e vergine come è nato dalla casa, capito? No, potevo farlo, ma non l'ho fatto, mi sono divertito un po' più con questo qua, capito? Però l'altro ho lasciato come mamma l'ha fatto, capito? L'altro stavo provando prima. Infatti, guarda, per farti un termine di paragone, cosa succede? Se parla Marco, che pure la radio non è bassa, abbassando il volume non lo sento più. Mentre invece mettendo il volume quasi a zero a te continuo ad ascoltarti. Attenzione, io sono a ottava, non sono a Sassari, io sono a ottava, sono vicino a Polo Torres io. Lo so, io non sono a Sassari, sono un tratto comunale, cioè Monteoro, che mi copre verso quella zona. Anzi, mi meraviglia che mi ascolti pure. No, Monteoro io lo vedo, io dall'antenna mia quando la piatto, io anche con le televisioni vedo l'antenna, vedo Monteoro, me lo vedo chiaro chiaro dalla posizione mia dove sono io. Ce l'ho di fronte, lo vedo tutto libero io Monteoro. Ecco perché io l'antenna è proprio. Ecco, mi ascolti bene perché l'antenna, c'ho cioè l'antenna su in alto, la mantova, e ecco perché mi ascolti bene anche. Ma come ti dicevo, io sono dietro Monteoro, quindi già con gli impunti c'ho problemi, capito? Perché c'è Monteoro che copre moltissimo, non parliamo di Porto Torres poi, che è una tragedia. Positivo, aspetta che passo all'altro e poi chiudo, passo con l'altro, dai. Allora, sono passato con l'altro, dai. Questo è l'altro, il primo che ho provato, che ho riparato, dai. Questo ci tenevo di farlo funzionare e mi va bene, c'è anche il bip qua, c'è anche il bip, questo qua, però è chiuso adesso. Sì, sicuramente ti diranno tutti che è bassa, però io la sento bene, non ci posso fare niente, quindi anche perché volendo la posso aumentare, giro un po' il volume, ma poco poco ed è una radio tranquilla, ecco. Poi non so, vedi tu. Ho toccato questo tono, ma questo tono cosa fa? Aumenta, no, forse hanno il tono e la voce quando parlate voi che abbassa la tonalità, forse è quello qua. Sì, di norma sì. E niente. Così, vediamo un po' se è rientrato Marco. Sì, eccomi. Mi stavo avvizzando, dai. Sì, lui, ripeto, quella modulazione normale da omologato. E naturalmente se entri in una ruota dove tutti sono forti ti diranno che è bassa, no, è normale, l'altra è che è forte, capito? E Gianfra, come le senti la modulazione di Luigi adesso e la mia? Cosa cambia dalla mia alla sua, come volume, come timbrica, come tonalità? Perché altro come volume mi interessa. Ma come volume, diciamo, è ottimale, ma tu c'è anche la voce che si presta, perché non è mai... Cioè c'è gente che si aumenta la voce quando c'è già la pompa grossa, quindi esce già forte con la sola voce normale senza amplificare. Tu evidentemente c'è una voce un po' bassa e dici perfettamente, ecco. Non è una modulazione debole, è una modulazione piena, che non c'è bisogno di altro, ecco. Te l'ho sempre detto, sono uno dei pochi che come modulazione va sempre bene. No, era per capire un paragone, no, tra la modulazione di Luigi attuale e la mia, come volume solo. Luigi, fai un passaggio normale, vai. Questo è normale, il passaggio normale, come ho parlato, normale come faccio sempre, vedi, un po' così. Eia, ascolta Gianfra, differenza di volume, dimmi se sono equivalenti, come volume solo, basta, non timbrica, dai. Guarda, quella di Luigi è leggermente più bassa, ma leggermente. Poi se vuoi faccio giudicare attacco a fare e vi sentite, ecco. No, no, mi fido del tuo orecchio, tu sei abbastanza pignolo, volevo dire orecchione, ma in senso buono, cioè che è l'orecchio allenato, dai. No, no, l'orecchio no magari, pignolo sicuramente, guarda, pignolo, su quello ci può girare, giurare, perché se vedo una cosa che va male la cambio, se vedo che comunque continua a andare male la ricambio un'altra volta. Io ad esempio odio la roba guasta, che siano apparati, che siano roba meccanica, quindi pignolo lo sono, lo ammetto, l'hai centrato in pieno. Comunque qua sta uscendo bene Luigi, è positivo. Sai, no, vabbè, questo è normale, nell'altro ci ho messo dentro il doppio modulatore, ecco perché. Allora con questa, perché c'è anche infatti che sui che regola, questa qua quando l'ho messa, adesso io non lo so, questa va da 1,5 watt a 14 watt di portante bianca, questa qui sto facendo adesso. E invece l'altra con il doppio modulatore l'ho portata al massimo 9 watt e minimo 1,5 watt, però c'ha più picchi perché c'è il doppio modulatore, forse ecco quel disturbo che sente quello lì, perché spinge, essendoci questo doppio modulatore, cosa succede? Questa radio spinge di più, va di più in lontananza, giustamente è una radio da camionista, come facevo io, perché me le preparavo così per il camion, perché sennò non arrivavo da nessuna parte, capito? Là, e in più ci ho aggiunto il doppio modulatore, anche se c'è un bel modulatore dentro, questa qua abbastanza, e c'ha due finali pure questa radio, due finali di cosa c'è, sono tornate così. E ecco perché c'è questa radio più forte che sicuramente disturba in vicinanza. Emanuele, mi copi? Sì, a voi, Marco, lì, a voi la siete in copia. Ascolta, come timbrica, come pulizia di modulazione, questa ti piace? Come è simile a quella del 3009 o diversa? Se vuoi vi faccio il passaggio, però non mi voglio dilungare con le prove, dai, non vi voglio assillare. Ah, io ti ascolto bene anche con l'altra, anche con l'altra esce bene, questa qua lo stesso è una bella modulazione, una bella chiara pulita. Ecco, però buonasera. Avanti. Va bene Marco, la tua la solita. Ciao Gigino, ciao Ginko, ciao Gianfranco. Ciao, chi è? Tino, tu sei? Io. A te devo mettere tonalità qua perché ti sento un po' in saturazione su questa radio qua. Però se abbasso questa tonalità è tutto normale. vai Tino a vedere. Sì, sono basso basso, non è che usando anche l'altro radio. Non so Marco, c'è qualche problema anche tu? No, no, io ti ascolto perfettamente qua. Qua c'è il tono regolabile anche in ricezione e sei buono, bilanciato, che dire. Poi io non sono così, sono di bocca buona come ricezione, mi non... Gianfranco è pignolo, mi. Gianfra, da lì un controllino. Mi astengo, è meglio. Oh, mi hanno chiamato, mi devo allontanare, scusatemi, ci sentiamo eventualmente dopo. No, Gianfra, con questo mi dai dei dubbi. Se Piattini non andava bene. Scusa, ma non ti ho capito se l'ha detto a me. Scusatemi di nuovo, mi stanno insistendo, richiamando, scappo velocemente. Oh Tino, aspetta, no, io, questo qua, la tonalità era troppo... Adesso che io l'ho abbastanza, tu sei perfetto, anche l'altro Manuele andava troppo il coso, perché il problema è questo, l'apparato che c'ha questa tonalità ed era tutta al massimo, capite? Perché io l'ho abbassata, quasi chiusa, e la tonalità è perfetta, capito? Non è così, era troppo forte di... non lo so, invece con Marco cosa andava bene, ma però con te mi arriva, invece abbassando questa tonalità sei perfettissimo. Vabbè, la base che abbiamo anche qualche cosa di troppo io, anche, non lo so, ditemelo, perché sennò se devo abbassare abbasso. Io ero assente quasi 2 settimane, quindi non ho toccato una radio niente, boh, vabbè, dunque riprendi. Comunque se lo scendo bene ti da 9 a 9:10 di picchi positivi. Rieccomi, ecco, questo è il 3009. Luigi, la differenza con l'altro, quale vi piace di più? Quell'altro di prima o questo il 3009? Mi sembra tutto uguale a me. Invece bene questo anche l'altro, mi sembrano uguali. Non noto differenza, mi sembra uguale all'altro. Guarda, fermo anche io lui, sembra uguale all'altra modulazione. Guarda Gigi, se va bene questo, si è cambiato qualche cosina. Cambiato, che lo smith non va più, capito? Se deve andare oltre, ho spacciato questo barattino ma arriva a fondo scala qua, capito? Però esce bene di radio. Registrato, questo è tipo la radio che sta utilizzando Marco, però è un 5005. Marco, questo è il suo, fai entrare il brecco, a parte che ho rumori di vento, di ventilatore e quant'altro. Eia. Vabbè, a me andava bene anche l'altro, diciamo sì, eri un po' al limite, per la città era abbondantemente forte, pure, però nessun problema. Io adesso vado a... caspita, le 6:30, io vado a mettere mano ai fornelli, avanti il brecco. Chieda Alghero, buonasera, non abbiamo capito perché c'è stato un piccolo innesco, Ciao Angelino, buonasera, mi hanno ascoltato. Vai Gigino. Ma Angelino chi è? Angelino... mio figliuccio, no? Non penso. Allora sei tu, Gigi. Avevo messo io quel nome, Radio Fantasma, ti ricordi? Sì, questo sì, a casa, dai. Ma non ti sento, ti ascolto bene, ma non sei proprio Alghero, sei o a Perfiria? Angelo, Santiago 8 Radio 5 qua, zona Cinema Ariston. Angelo, ne approfitto allora, tu Santiago 7 Radio 5 qua, se puoi contraccambiare, grazie. E abbiamo... auguroni, per il nuovo arrivato. L'ho visto su Facebook, Angelino, tanti auguroni, Positivo, il primo quello, Angelo, il primo è positivo, dai. Poi il resto è tutto a posto, meglio così, dai, e almeno ci avete un po' da fare adesso, dai, la notte, positivo, dai, dopo tanti anni tra fidanzamento e una cosa e l'altra, pare sono passati un bel po' di anni, forse anche più di 10, è positivo. Io mi ricordavo la vecchia razza, mannaggia, un po' di tempo c'è passato. Ma però, mi ricordo, ti ricordo il giorno che ero lì al Ghero, stavo scaricando ed ero vicino a casa tua, ti ricordi il giorno? Ma non avevate sposati ancora, no? Non me lo ricordo davvero, Forse hai ragione, forse era parte per uscire a Monteleone, fa, come si chiama Monteleone lì? Beh, può essere, quella zona lì può essere. Più di 10 anni saranno pure. Ma so se avevo già il Mercedes, vabbè il Mercedes avevo 11 anni prima andare in pensione. Forse sì, 10 o se no di più pure. Allora c'è Marco, c'è Emanuele, c'è Tino. Vai Marco, Marco forse si è andato ai fornelli. Emanuele ci stai tu? Sì, sì, ci sono. Non so se mi ascolta l'amico di Alghero, dai, a te ancora. Ok, dai, perfetto. Io ti ascolto lo stesso. Una radio di 5, un Santiago di 7. A te ancora, lui. È positivo. Marco, Tino c'è ancora. Tino, ci sei? Sì, sì, ecco, dai. Ne approfitto, visto che è considerato che c'è stato in arrivo un nuovo gringhello nella terra, tanti auguri, a farlo grande, come si suol dire, no? Hai sentito Martino Angeli? È positivo, dai. Poi a volte andavo a caricare da Prunto e lì ci lavorava il padre di Nadia, ci lavorava lì. Vabbè, dai, fai gli auguri a Nadia e è un bacione al puffo. Sì, oh lui, un attimino, sì, tanto per salutare, sono entrato, adesso metto a fare un po' di roba. Lui arriva a Santiago 8 qua, ultimamente, a Santiago 8 è una bella radio anche, una bella modulazione. Dai, detto ciò, saluto tutti, Angelo, Tino, che miseria, chi altri c'era? Manuele, ho perso il conto, dai. Stavo riassettando qua, cacciavitti, casino che ho fatto. E spengo, dai, buon proseguimento di serata e niente, basta. Va bene, dai, ciao Marco, dai, fai buon proseguo della serata, ciao Marco, ciao, ti passo la Ginko, dai, per i saluti, poi Gigi mi dai un controllino con radio, mi interessa, non di segnale, vai Ginko. Ciao Marco, buona continuazione di serata, dai, alle prossime. Vai Tony, io Tino. Ehi, ma boh, Gigi, ti faccio, ti cambio radio però, che paragoni mi puoi dare tra questa radio che sto utilizzando ora, a parte lascia perdere il segnale che non mi interessa, ti accendo altre? Vabbè, no, questa va benissimo, abbassando è la radio mia che ha preso tutto questo tono, e sentivo male anche a Manuele proprio, invece abbassando il tono, è proprio bella, la radio è bellissima. Era il problema mio della radio, capito, il tono, capito, era tutto al massimo. Buonasera a tutti, Emanuele, c'è questo canale. Sì, acqua. Sì, ciao. Sì, questa è l'altra, Gigi. Ma in PMR, Emanuele. Sì, ok, vi lascio un attimo, dai, ci risentiamo. Ciao Luigi, Tino e compagni. Sì, stadio, ma almeno salutami se non altro. È fatto così Claudio, entra di botto, ce ne va. Salutato a tutti Gigi, ciao, buonasera a tutti. Ciao Claudio, non ti ho sentito, dico la verità, dai. No, ho sentito che sei entrato e non ti ho sentito di salutare. No, non è mia abitudine non salutare, comunque buon proseguo a tutti, alle prossime, ciao. Ciao Claudio. Ciao Claudio, ciao. Gigi, questa è l'altra, giusto per sapere un pochino la differenza, dai. Cioè, non so se mi ha toccato qualcosa la mia assenza. No, non ho toccato nulla, questa appena leggermente si fa la voce molto migliore, la timbrica della voce molto, però è perfetta, chiara, bella radio anche questa. Non è amplificata, esagerata diciamo, ecco. No, il segnale è sempre lo stesso, tu qua non va oltre, sarà un po' anche questo baracchino, dai. Perché l'ho messo a posto, l'ho riparato questo, però non ho toccato nulla, e bisogna tararli questi così con gli altri. Quando c'ho quella che è radio buona, un po' professionale, me lo starò lì, capito, ascoltando a voi, perché se no, questi baracchini uno è diverso dall'altro, se tu l'attacchi, li controlli, il segnale cambia in tutti quanti, non sono precisi come segnali. Comunque come radio è perfetta, è buona. Bene, però qua tu arrivi 9.15, 9.15 spaccato, senza né picchi positivi o meno. La modulazione sì, va forse leggermente in positivo, ma è impercettibile la cosa. Se ti faccio ascoltare l'altro gemello di questo qua, te lo faccio. faccio ascoltare e lì ci ho fatto qualcosa dentro, questo no, questo è normale come si trova la casa, l'altro ci ho fatto qualcosa dentro e te lo faccio ascoltare l'altro, poi mi dici se qualcuno ha detto che era troppo forte, non so cosa che non va bene, era meglio questo, questo lo faccio ascoltare. Sì, fai, fai, no vabbè, no, se era come bloccante l'ho sentito e a me è piaciuto tanto, poi vabbè, cioè, lascia perdere quello che dice la gente perché... come si suol dire, fa del bene né sempre del male, nel senso che ognuno ha i suoi gusti e i colori, i gusti e i colori non si discutono, quindi è così, niente di che. C'è quello che piace la modulazione da salotto, c'è quello che le piace la battaglia da 45, quindi non puoi mai metterlo d'accordo. Ok, vedi un po' se l'ho collegato, io ti do il mio parere, poi come si suol dire, prendere le pinze, a me piace aggressiva la popolazione, mi piace prepotente, non bassalotto si fa quando sono le 3 o 4 del mattino, che non hai voglia di sentire e di raccontare, come si suol dire, vai Gigi. Positivo, no, e vabbè, quando siamo così uno vicino all'altro già è meglio che sia una cosa più rilassante, là. Quello già è giusto. Allora questo è l'altro, quello che se tu mi hai detto l'hai già ascoltato, e qua ci ho fatto dei lavoretti dentro, e su questo qua, adesso sono con 4 watt e 4 watt di portante bianca. Sì, a mio parere questa è molto più potente, più aggressiva, con un segnale di 9,15 quasi a picco di 9,18, che dire, molto, molto presente come radio, la battaglia. Aspetta, adesso ti faccio sentire diversamente, poi dice se va bene o se va in saturazione. Bene, addirittura guarda, se fai un corso con questa radio, allora dalla prima che avvivi dovrei abbassare leggermente il volume. Ecco cosa intendono chi ascolta. Positivo il caparrogio, adesso abbiamo dato un po' di vitamine, vedi un po' se la radio è satura o se va bene. Ma per niente, anzi, fai 9,30 abbondante, la radio per me è perfetta nella mia postazione, con un leggero eco anche. Ma c'è l'eco sotto, non è chiuso. Appena lo sento, niente di ripetitivo, però c'è. Non mi ricordo neanche chi è. Vedi, hola, no. Hola, non è questo. Lo metto guarda. Sì, vabbè. È leggero, però va a pressare. Hola. Ah, eccolo. Adesso è più ripetitivo, era meglio prima. No, aspetta, sto cercando cosa ho toccato. Sì, aspetta. Hola. Ah, questo è il parlascolto, aspetta un secondo. Parlascolto, Michigi. Questo, anche questo c'è il tono. Anche questo c'è il tono. Allora, vediamo un po'. Comunque, ma l'eco c'è lo stesso sotto così? No, adesso no, forse io leggermente aperto, non te ne sei accorto. Ma è chiuso, così è chiuso. Poco fa stavo cercando il pomile e mi è partito. Grazie, adesso è chiuso. Adesso è chiuso e sta spingendo alla grande. Vediamo un po', c'è Emanuele che è entrato. Emanuele, sei tu? O chi era? Angelino era? Chi era? Oh, Angelina, ha cambiato qualcosa da te questa adesso. È il gemello dell'altro, però aspetta che lo porta a 4 watt. O 4 watt l'abbiamo messo, dai. A 4 watt va bene, satura niente lì a Fertilia. Va bene. Oh, quando ho provato qualche watt, Otti, tu che sei vicino, era buona come radio. Sì, per me sì. Andava a spingere, perché spinge, però la radio è comprensibilissima, non saturava e niente. Angeli, questa è un'altra radio, se mi dai conferma, mi dai un controllo anche su questa, mi dici come sta andando il radio di Santiago, grazie. Allora, su questa qua adesso è leggermente un pennino di meno su questa, con l'altra, no? Se l'altra è sul più 30, qua sei sopra il più. La radio è sempre, non me ne ero accorto di aver cambiato radio, non me ne ero accorto di aver cambiato radio. Capa, Gigi. E invece tu, Angeli, come ascolti lì a Fertilia, va bene? È più forte questa la radio che quell'altra, pensavo al contrario, va bene, dai. Cosetti, che in lontananza te ne accorgi, noi vicino qua non ce ne possiamo accorgere perché il segnale è uguale, la radio sembra sempre uguale, capito? Invece uno che è in lontananza, lontano, a Fertilia, te ne accorge, come che se ne accorge. Ecco, vedi, questa è l'altra, cambia qualcosa, la radio è più bassa questa. Ah, bene, vabbè, buono sapersi. Va bene. Bene, questa ha la possibilità di dargli un po' di eco anche. E vabbè, quello la posso alzare anche un pochino, scusami se faccio ping pong per via del mic, però vabbè, ormai l'ho regolata così anche per fare questo locale, quindi per non fare via magari a distruggere o i timpani a qualcun altro che è qua in zona, quindi la lascio così. Va bene. Va bene, vi devo lasciare, vi devo lontanare dalla radio che devo fare una cosa qua fuori che mi stanno chiamando, al limite se coincide ripeto dopo. Gigi, ti lascio il mic, dai, ci sentiamo, ciao a tutti, dai. Ciao, dai, anch'io devo, Angeli, anch'io devo chiudere, dai, stavo aspettando per darmi il coso. Angeli, dai, abbiamo modo di riascoltarci, dai, che anch'io sono un po' impegnato, devo fare un lavoretto adesso veloce giù. Ciao Angeli, ciao. Oh, sapevi per Paolo se l'ha messo a conto suo, ho comprato l'articolato, una motrice, lo sapevi? Mi si è preso la licenza, tutto quanto, ha preso quel lavoro di lui, vabbè, abita Usilo, sposato lì. Comunque c'è un articolato col pianale e più una motrice c'è con la gru, capito? Positivo, là. Vabbè, io sono già più di 5 anni che sono in pensione e è tutto caparroccia. Vabbè Angeli, dai, devo salutare, dai. Ti abbiamo già, ci ascoltiamo altre, perché sto facendo lavori e durante il giorno a volte mi di sera, se finisco presto, mi sto facendo adesso questi giorni stava piovendo, no, stavo riparando questi baracchini, facendo lavori, però ho lavori a casa, sto facendo, sto aggiustando un po' la facciata, lavoriti, dai, che sto facendo a casa e ne sto approfittando quando sono questi giorni buoni e niente, a volte la sera mi trattengo perché c'è un po' di caldo dopo pranzo e vado quando inizia a frescare un po' e mi trattengo prima di penso alle 7 mesi e mi ritiro, capito? E approfitto a fare qualcosa. Ciao Angeli, ciao. E avanti il fischio, avanti lo di questa salino, avanti lo bruscio. Manuele mi sembrava, ma non sono sicuro. Ciao Giulio, sto andando a fuoco, sono i fornelli, quindi sto andando a fuoco il doppio. Serata di regolazioni, era di prove, c'è una cosa da fare, una piccola regolazione da fare, indispensabile potrei dire, dai. Ti saluto Giulio, dai, sono i fornelli, se non sarei entrato. Ciao anche a Manuele, se era lui. Ok, ciao Marco, ciao. Domani sarebbe andato bene, come prove che hai fatto, quando hai fatto quella regolazione andava benissimo. Comunque anche con noi. Ciao Marco, di nuovo ci sentiamo. Giulio, occhio alla potenza, distorsione totale, all'inizio andavi bene, poi ha fatto come fa al solito, tutto come di splatter. Male, se vuoi ti faccio sentire come si tramite WhatsApp. Come risplattermi? Aspetta che ci penso io qua. Ma tutte le volte che mi avvicino il microfono se tocco un po' attenzione, tutte le volte mi succede. Perché c'è il filo, no? Siccome ho fatto una spazzone lungo, se lo passo dietro, la radio c'è un suo comodino qua. Quando poi non uso, lo metto il microfono, lo metto sulla radio. Quando lo devo usare, lo metto dall'altra parte del comunino, se allora qua cavo, giro sempre potenziale. adesso è capibile ma è molto molto distorta. Mi faccio prima a fartela sentire, Giulio. È come che appena appena scaldato, come hai fatto due passaggi, tutto è partito da razzo, è partita. Allora ho abbassato ancora, ma chi così, anche adesso va male. Prova. 1, 2, 3, 4, aspetta che abbassa ancora. Ecco, 1, 2, 3, prova, ecco, adesso è ultimare, dai, avanti. Sì, adesso dovresti averla raggiunta. Ma all'inizio devi sentire com'è partita, proprio splatter, splatter puro e fortissima, Mimo, cioè fortissima come di splatter. E ogni tanto lo fa, ogni tanto lo fa. Ok, va bene. Poi, vabbè, Emanuele non ha ripreso, prima era sul 10, ho messo. Sto tiraccando i fornelli e sto andando a fuoco per questioni mie, sempre ormonali, dai. Ci sentiamo, Giulio. Ok. Ok, Marco, sì, no, perché, ripeto, il carrier è difettoso. Quando lo giro più di quel tanto, il Mikey Gain, finisce che va in saturazione. Oh, non lo so. Comunque, ma poi lo datore, oppure lo metto da parte, non se ne parla più. E mi compro magari un 6009, mi piace moltissimo, che in realtà poi è uno 3009, più o meno, un po' migliorato, però. Eia, però ancora non è pulitissima, è proprio pulitissima, non è. Tu hai sentito anche la differenza prima, quello prima del 3009, l'hai sentito? Sì, quello è un President. Sì, era buona. Accidenti, non riesco, ecco qua, così dovrebbe andare bene, dai, così dovrebbe andare bene, ma confermi. No, è sporca e satura, non ci siamo, ti dovrei far sentire, vabbè, però, e d'altronde la potenza era abbassata, cosa può essere? I contatti sporchi, boh. Non lo so, mi ascolto anch'io, vediamo un po', sì, effetti, aspetta. Portante Mutta, sei sceso a Santiago 7, modulati arrivi anche a 9 più, però sei calato drasticamente di segnale con Portante Mutta e non è perfetto, dai. Comunque per tuo uso e consumo, no, così ti mando un istante quando sei andato in distorsione, dai, tu ti fai un'idea. Ok, sì, me la colgo, tocco il carrier. Ecco, tocco il carrier e va male. E vabbè, difettoso, e non lo so cosa può essere. Vabbè, lo farò vedere, se no lo butto via e non se ne parla più. E non lo uso più questo. Tanto vi dà la ragione. Mi basta il baracchino. 1, 2, 3, prova. Prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ecco, 1, 2, 3, prova, vabbè, lo so, adesso sono basso di segnale, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, così dovrebbe andare bene, meglio di prima perlomeno, non è al massimo, però è meglio di prima. È strano, non capisco bene, vediamo un po' l'ultimo passaggio, breve, prova un po'. No, è sporco Marco, è sporco, è difettoso il carrier, solo aumentare poco, il carrier già incomincia a gracchiare, è difettoso il carrier, non so come, è micidiale, così al massimo. Così 1, 2, 3, prova. Ecco, così con nemmeno 5 watt, così è discreto, non è fortissimo. Ah, prova, 1, 2, 3, prova. Così non è male, però non è la radio sua. Sì, adesso va bene, il segnale è 9 più 10, abbondante pure, però non è la classica modulazione brillante di quel tipo di apparato. Ehi Giulio, poi hai capito io perché preferisco i baracchini, non c'è questi cosi, metti e va, è sempre limpido. A me quante volte mi avete sentito uscire male? Pochissime credo. No, ma è questa la radio che mi sta facendo difetto in questo ultimo periodo. No, tu esci bene, abbastanza. È un difetto del carrier, da un po' di tempo a questa parte, però sono sempre uscito abbastanza bene. Ma io ci metto poco, me lo metto da parte e uso un baracchino e basta. E non è che ci perdo due volte. No. Comunque, vabbè, adesso è bassissimo di segnale, perché sto uscendo con 5 watt nemmeno. No, ma il segnale è bassissimo, no, è di lusso. No, c'era quando stavi regolando, è risceso a 7, l'importante muta prima, adesso va bene, però sì, non è la modulazione tipica di quella radio. Giulio, devo scappare, dai, bolle l'acqua, poi già ci sentiremo, ok? Stasera dopo tanto è entrato Luigi, Vulcano, è entrato Tino, un po' di gente è entrato, dai. Stavo ascoltando, per cui già vi ho seguito, ma appunto stavo facendo le prove, facciamo il pane, intanto sento Gabri, sento Barretti, perché bastava uno per dare le conferme della radio. Ma buon Marco, dai, buon pranzo, ci sentiamo allora, dai, alle prossime, ok, ciao. Adesso è buono, non tocca, se questo passaggio era splendida. Sì, poi io, come ho detto a più persone, io se prendo 10 apparecchi diversi e do il controllo alla stessa persona, lo sento in 10 modi diversi, quindi è tutto molto relativo, Giulio, dai. Buon proseguimento di serata, ci sentiamo, ciao ciao. Ok, ciao ciao Marco. Sì, adesso ho trovato la posizione giusta e adesso va bene, anche se è basso di segnale. No, vediamo un po', ecco, anche così, con qualche watt in più. No, 6 watt, 7 watt, così va bene lo stesso. Ma ciao Marco, ci sentiamo, vai, non mi rispondere nemmeno, se non ti voglio trattenere, dai. Ciao Marco, alle prossime. Ciao ciao a tutti, ciao.